E non andiamo avanti. E poi a un certo punto ci tagliano la strada, ci fermano, ci buttano a terra, ci menano, ci hanno rotto il megafono, insomma, successe, ci volevano, hanno preso una ragazza di noi, fino a che a un certo punto sono arrivate altri compagni da tutto il quartiere e siamo riusciti ad andare via. Abbiamo ricordato il partigiano Gobbi che sta in via Celentano, abbiamo letto la sua storia breve. Stavamo tornando, ognuno a casa propria, molti in transit, molti di qua, molti di là, e quando qui, dove siamo, in Don Orione, con l'incrocio con Ricciardi, ci hanno di nuovo caricato e uno hanno menato alcuni di noi, uno ha provato a liberarsi ed è stato portato via, a identificare, dicono. Adesso noi siamo qua, siamo molto preoccupati perché alcune persone, alcuni abitanti ci stanno portando la solidarietà, altri no, e siamo molto preoccupati, almeno io personalmente, perché non voglio che si abituino a questo, ho paura che ci si abitua a questo stato di controllo quasi fascista, dove non si riesce più ad andare in giro. Abbiamo una testa, usiamola, sappiamo prenderci cura di noi stessi, cerchiamo di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Non, come dice una di noi, forse è più pericoloso andare a rinchiudersi in un supermercato tutti i giorni piuttosto che mettere un drappo a una lapide di un partigiano il 25 aprile. Grazie. Aspettiamo qua, speriamo che Andrea venga libero subito. Sì, Andrea libero subito, grazie. E Andrea è libero effettivamente, e l'abbiamo raggiunto telefonicamente e dunque sentiamo cosa ci dice. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Ci puoi raccontare? Eccomi qua, ciao a tutti. Sì, no, vi racconto molto volentieri. Insomma, stamattina sono uscito da poco, insomma, dalla questura, dove mi hanno portato, dopo che stamattina con alcuni compagni e compagni di zona siamo andati a fare un giro per le lapidi qua di zona di via Padova per portare dei fiori e dei racconti su chi fossero i partigiani e le circostanze in cui erano morti. Dopo la prima lapide siamo stati fermati da alcuni poliziotti che hanno cominciato a intimarci con violenza di identificarci. Nel giro di pochi minuti sono arrivati decine di poliziotti, erano più o meno 18 macchine, che ci hanno circondato e che ci intimavano, insomma, di l'identificazione. Dopo questo primo, cioè, ci hanno accerchiato, nonostante questo è arrivata la Digos, è arrivato il capo della polizia e ha cercato di quietare quanto stava accadendo, lasciandoci procedere per il nostro giro, che comunque stava avvenendo nel rispetto di tutte le norme insomma imposte da questo virus. Dopo aver fatto l'ultima lapide e quindi aver deciso di andare verso casa, anche i capi della polizia e della Digos sono andati via e le pattuglie che inizialmente ci avevano fermato hanno fatto una vigliaccata prendendoci da dietro e cercando di dividerci, visto che eravamo comunque un po' distanziati per mantenere la sicurezza. E in quel momento qualcuno è stato sbattuto alle macchine, sono riuscito a evitare le prime manganellate e a scappare nella direzione opposta, hanno cominciato a seguirmi manganello alla mano dei poliziotti e nonostante fossi riuscito, insomma, a seminare i primi, poi uno mi era arrivato prendendo addosso ed è inciampato da solo andando a sbattere la faccia per terra, ne sono arrivati altri cinque nella direzione opposta con le macchine che mi hanno circondato, mi sono saltati addosso, mi hanno buttato per terra, ginocchia sulla schiena, manette, mi hanno portato in questura. Lì mi hanno tenuto nella cella di quelle che ci sono a piano terra di Fate Bene Fratelli e dopo 3 ore mi hanno detto che ero stato denunciato per resistenza, guarda caso proprio nel giorno della celebrazione della resistenza, che cosa simpatica. E niente, mi hanno fatto nominare, insomma, l'avvocato e mi hanno lasciato andare, mi hanno ritirato tutti i volantini che avevo nello zaino che stavano andando ad attaccare vicino alle lapidi, dicendo che avevo dei volantini che inneggiavano la violenza contro le forze dell'ordine, quando invece raccontavano la memoria e la storia e insomma questo è quanto. Probabilmente sono anche abbastanza accaniti su di me perché avevo preso parola abbastanza vivacemente nel momento del primo fermo, quando poi alla fine siamo riusciti a farci rilasciare. Comunque adesso sto bene, sono tornato, insomma, con i compagni e andiamo avanti. Grazie Andrea della tua voce. A presto. Ciao Dan, grazie a voi. Ciao ciao. E torniamo in diretta, abbiamo sentito la testimonianza di Andrea. Vorrei chiedere a C, che era sia a Transiti che in Viale Padova, più o meno com'è la situazione adesso, com'è andata e anche come stai. Allora, ciao amici di Radio Nero. Allora, io non ho visto molto, ho fatto un po' un giretto stamattina che adesso vi racconterò. Personalmente sto bene. Che cosa è successo oggi? Ho sentito che c'erano stati questi problemi a Via Padova e mi sono mosso verso il 28, perché appunto è facilmente raggiungibile da dove sono io. E a T28 ho trovato, diciamo, a parte questi eventi qua, una bella situazione gioiosa di solidarietà e di organizzazione. Le brigate si stavano organizzando per fare una distribuzione che però temo sia stata quantomeno rallentata da questi fatti. E ci sono stati dei bei momenti di condivisione anche politica per la stesura del comunicato. E niente, è stata un'occasione anche di rincontrare un po' di compagni e compagni che finora avevo visto soltanto online. E niente, non so se vogliamo parlare di qualcosa di più specifico, se ci sono domande Mi particolari. sembra abbastanza grave che nel giorno dedicato alla Resistenza, il giorno della liberazione, il 25 aprile, venga fermata gente proprio mentre sta andando a mettere fiori sulle lapidi dei partigiani. E tra l'altro non è successo solamente in zona nord, ma è successo anche in zona sud. Abbiamo due contributi. Li mando? Che dici, C? Sì, per me si possono tranquillamente mandare. Io forse colgo l'occasione per osservare che quello che è successo oggi potrebbe darci anche un po' un'idea di ciò che succederà domani, nel senso che mi sembra proprio un caso molto chiaro di come le misure restrittive possono essere applicate agli assembramenti anche quando assembramenti di fatto non sono. Però ascolterei molto volentieri i contributi che ci sono a Radio Virus, per cui passo e ci risentiamo dopo magari. A tra poco, mandiamo. Il Vai. primo contributo è della compagna V di Torricelli, seguirà il contributo della compagna C, sempre Torricelli. E sostanzialmente avevamo appena toccato l'ultima lapide, quella di Via Spaventa 1, che tra l'altro è la lapide di Mario Peruzzi, che è stata danneggiata dai fascisti anche lo scorso anno. E, ci stavamo già quasi sciogliendo, stavamo facendo gli ultimi interventi con il megafono, stavamo leggendo alcuni testi, tra cui quello di Cesare Bermani, e stavamo attraversando via Scagno Sforza e una volta arrivati su Viale Tibaldi, abbiamo subito visto che stavano arrivando sei camionette, tre della polizia e tre dei carabinieri. A nulla sono valsi anche i tentativi sia nostri sia di alcuni solidali che dai balconi hanno detto che era già finito tutto, che stavamo tornando praticamente a casa, ma siamo stati accerchiati e siamo stati praticamente chiusi su via Scagno Sforza dopo aver attraversato via Tibaldi. Se all'iniziativa di stamattina eravamo circa 30 persone, poi in realtà nell'ultima parte siamo rimasti accerchiati, eravamo una ventina, credo 25 persone, ci hanno tenuti lì più di 2 ore e mezza, ci hanno identificati, chiesto i documenti, anche con modi abbastanza violenti. Siamo stati lì e a nulla sono valsi i tentativi anche di alcuni solidali, dei amici del quartiere, compagni o gente che passava di lì, si sono anche messi a dare il loro supporto parlando con noi per tutto il tempo dall'altra parte del naviglio, ma la polizia si è spostata e ha mandato due camionette a bloccare anche la strada al di là del naviglio per chiedere alla gente di andare via e di non, per vietargli praticamente appunto di parlare con noi. Noi siamo rimasti lì, abbiamo continuato a fare i nostri interventi e niente, alla fine sostanzialmente ci hanno tutti identificati, la multa è stata data a tutti, la multa di 400 euro canonica, quella per gli spostamenti durante la pandemia in corso. Alcuni compagni con fogli di via da Milano sono stati denunciati e niente, al termine di tutto, una volta fatte tutte le trafile burocratiche, compilato tutti i moduli, ci hanno lasciati andare e sostanzialmente questo è quello che è successo. Grazie della testimonianza. Ciao. Grazie a te. Ciao. Abbiamo la testimonianza di una delle compagne che era alla posa dei fiori nelle lapidi stamattina e do a lei la voce. Ciao, dunque sì, stamattina ci siamo trovati alle 11 alla lapide in Viale Tibaldi, che è una lapide dedicata a quattro partigiani uccisi dai fascisti nel 1944, e per portare dei fiori e cercare appunto di far sì che questo 25 aprile non fosse costretto in casa. Quindi abbiamo deciso di andare in strada e di fare la visita a queste tre lapidi. In più avevamo anche alcune righe scritte da Cesare Bermani, che quindi ci hanno dato la possibilità di fare un intervento anche molto profondo, spesso insomma sotto le lapidi. Quindi ci siamo fermati prima in via Tibaldi, poi siamo andati in via Spaventa e qui poi abbiamo avuto, per forza, è stato un bel momento perché abbiamo avuto molto sostegno anche dalle persone, dagli abitanti della zona che ci hanno applaudito. Anche lì abbiamo ripetuto l'intervento e messo i nostri mattonini di fiori di campo raccolti. E poi l'ultima lapide è stata in via Bondi e anche lì si trattava poi di un. C'era una lapide anche particolarmente bella perché inneggiava insomma allo spirito, al desiderio di libertà che supera anche la paura della morte, quindi abbiamo letto anche quella lapide, cioè quello che era scritto su questa lapide, e poi dopo ci siamo riavviati verso il ritorno. Ci sono stati altri interventi lungo il percorso e poi penso che dopo di me insomma parlerà chi racconta che c'è stato un fermo di ben 3 ore da parte della polizia. Comunque è stato un bel 25 aprile per me perché fatto in un modo molto sentito, tra alcuni compagni che hanno avuto appunto, hanno deciso che insomma fosse ora di rompere questo obbligo a restare in casa. È tutto. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo sentito la testimonianza della compagna C che ha concluso con un bel 25 aprile. Sì, è stato un bel 25 aprile, anche una bella giornata di sole. Ci sono state solo due ombre, almeno per quello che riguarda Milano, città medaglia d'oro per la Resistenza, e qualcuno anche a Napoli. Se facciamo in tempo e ci mandano il contributo, facciamo in tempo a mandarlo adesso, altrimenti andrà in onda dopo. E abbiamo anche il comunicato da Torricelli che mandiamo subito. L'amico e grande storico della Resistenza Cesare Bermani ha scritto un testo appositamente per l'iniziativa che abbiamo svolto oggi, andando a portare i fiori e un saluto a tre lapidi nel quartiere Ticinese. Il suo testo dice: cosa è stata la Resistenza? Molto realisticamente l'azionista Ferruccio Parri ha scritto: rifiutiamo per noi le penne del pavone. Sono gli alleati che hanno sconfitto il nazismo e la sua triste appendice fascista. Dietro di essi abbiamo vinto anche noi. Non è stato un miracolo, ma è stato il riscatto di fronte al mondo e all'avvenire dell'onore nazionale. E questo riscatto, pagato col dono così grave del sangue più generoso, resta una cosa grande nella storia di un paese che pareva civilmente e moralmente paralizzato dall'inquinamento fascista. Fin qui la citazione di Parri. Poi Cesare continua. I resistenti speravano che l'Italia sarebbe stata radicalmente diversa dal regime fascista. È stata diversa, ma non radicalmente diversa. Fin quando esisterà il capitalismo vi saranno crescenti diseguaglianze, sconvolgimenti climatici, distruzione della natura e continue pandemie, di cui il Covid-19 non è certo l'ultima. Le migliaia di ragazzi morti nella Resistenza sono state le avanguardie di una lotta per un mondo umano che è ben lungi dall'essersi conclusa. Dimostriamoci degni di loro. Ecco, questo è il testo di Cesare. Perfetto, grazie. E dunque torniamo in onda in diretta. Ci sei ancora? No, ci siamo persi. Se ci torna, entra in qualsiasi momento. Pronto, pronto? Eccoti. Eccomi. Mi dica. Ma direi che c'è qualcosa che possiamo aggiungere. Pronto? Pronto, ti sentiamo. Sì, scusate, ho avuto un problema di microfoni qua. No, malissimo. Sono qui. Allora, come va? Qua attendiamo il comunicato da Napoli, mi sembra. Comunicato da Napoli, ce lo stanno mandando? Sembra di sì, dalle cose che capisco sembra di sì, ma io personalmente non lo vedo, quindi niente, anche di io attesa, leggo, adesso ve lo mandiamo, arriva, eccolo, arriva, eccolo. vedo che è arrivato. Se tu mi fai da, come dire, riempi lo spazio, io vedo certo. Di recuperare il comunicato. Va bene. E allora qua mentre i compagni di Radio Virus recuperano il comunicato, io che cos'altro posso dirvi? Niente, giornata bizzarra, per me questa è stata una delle prime giornate in cui ho potuto un attimo riprendere il contatto con la città, è stato senz'altro spiacevole riprenderlo con queste notizie dei compagni e delle compagne fermati in più posti di Milano. Io mi auguro che il comunicato che stiamo per sentire da Napoli ci mandi delle notizie più rassicuranti. E niente, non so nel frattempo se siamo pronti per far partire questo comunicato napoletano. Siamo pronti. Siamo pronti? Allora niente, io a questo punto vi lascio la parola e ascolto con voi. Tra poco. Radio Quarantella Napoli. Il 25 aprile in quarantella metti la cassa del computer alla finestra e trasmetti insieme a noi. Nella giornata della liberazione torniamo nelle strade con la nostra voce. La la la la la la la. Anticorpi dal basso. Stamattina 25 aprile, in occasione della festa della liberazione, siamo andati con alcuni compagni e compagne sul ponte Maddalena Cerasuolo, il ponte della sanità, per affiggere due striscioni. Il primo recita reddito di resistenza per tutti, il secondo l'unica sicurezza è la libertà. Dopo questa azione, anche se è arrivata una volante della polizia, ma tutto si è svolto, diciamo, in maniera abbastanza tranquilla, senza particolari scontri e tensioni, il gruppo che ha portato a termine questa azione si è sciolto e nel giro di poco tempo, intorno all'1:20 o giù di lì, dopo la presenza di alcune volanti e camionette della polizia sul ponte, dopo alcune foto fatte da un agente in borghese agli striscioni, sono stati rimossi. Mentre era un atto libero e non avevano nessun diritto, insomma, di rimuovere quanto affisso in precedenza. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Allora, quello che è accaduto è che stamattina eravamo nel cuore di Bagnoli, in Viale Campi Ferrei, a distribuire mascherine e spese solidali e cogliendo l'occasione del 25 aprile abbiamo aperto uno striscione che invitava al blocco di mutui, fitti e così via, ma soprattutto inneggiava al reddito e soprattutto alla patrimoniale del 10% sul 10% dei più ricchi in Italia, ovviamente allo scopo di rispondere alla crisi sociale che è già purtroppo in atto. Durante l'azione era durata relativamente poco, dato che la distribuzione e le spese sono state molto rapide. Ovviamente avevamo rispettato tutte le misure di sicurezza, indossavamo guanti, mascherine, le persone stesse si sono avvicinate per pochi istanti, erano ben protette, e alla fine di tutto, dopo i vari interventi, sarà durato una decina di minuti circa tutto quanto, sì, ce ne stavamo andando quando siamo stati fermati da una volante sopraggiunta in loco, e siamo stati fermati in due e identificati, e poi abbiamo ricevuto la multa per la violazione della quarantena e soprattutto la denuncia per manifestazione non autorizzata. Questo ha determinato una anche reazione delle persone che già in giro per le spese o per andare in farmacia hanno sostenuto e solidarizzato con noi, ripetendo più volte, applaudendo, cantando bella ciao e così via. Radio Quarantella Napoli, anticorpi dal bar. Siamo lì e siamo arrivati dopo che avevamo messo lo striscione al comune, prima a Montesanto sulla Cumana. Siamo scesi e abbiamo raggiunto il comune. Al comune abbiamo dato un clima assolutamente surreale, perché il tempo di aprire la striscione siamo stati accerchiati prima dai carabinieri e poi la Medina con il rinforzo della Cenere. Ci hanno bloccati, ci hanno strattonati, come sempre. E all'improvviso hanno cominciato a colpire le persone all'interno del gruppo, che stava ben distanziato, completo di mascherine, guanti, diciamo, come dice il decreto, stavamo distanziati. Loro hanno fatto prima un cerchio, poi ci hanno chiuso all'interno del cerchio e hanno incominciato a prendere le persone e portarle in questura. Quattro di noi siamo stati fermati e portati in questura, perché con l'accusa che non avevamo i documenti. Poi su quattro persone solamente tre avevano i documenti e solamente uno non l'aveva, e il resto sono stati multati tutti quanti in piazza. Poi il tempo che siamo scesi è durato molto tempo, perché il nostro compagno comunque è stato anche fotosegnalato. Ci siamo ritrovati giù con i compagni e le compagne che erano venute a portare solidarietà, che erano stati fermati, e anche loro hanno avuto lo stesso trattamento che avevamo subito noi. Allora, noi siamo stati denunciati dell'ex articolo 18 per manifestazione non autorizzata e per non aver dato il avviso alla questura. Abbiamo ricevuto un'ammenda di 400 euro, in più ci hanno anche consegnato un foglio che i nostri nomi verranno poi segnalati all'ASL di competenza. Questo è sul piano repressivo le risposte di questa giornata. Sull'altro piano, diciamo che è stato un bel 25 aprile, sperando che questo sia solamente una scintilla che può accendere questo prato che è pieno di contraddizioni. Radio Quarantella Napoli. Il 25 aprile in quarantella. Metti la cassa del computer alla finestra e trasmetti insieme a noi. Nella giornata della liberazione, torniamo nelle strade con la nostra voce. Metti fuori la cassa! E rieccoci, grazie ancora a Radio Quarantella Napoli per il contributo sulla situazione di Napoli. Ci ha anche un po' rallegrato, trovo. Senza dimenticare che in questo momento credo che Andrea abbia bisogno di tutto il supporto possibile perché la situazione sua si risolva al meglio. Ci sei? No, ti ho perso. Se ritorni, entra pure in qualunque momento. Nel frattempo, eccoci. Non mi ero mica accorto che stai parlando con me. Un attimo fa eravamo più bravi della Rai e adesso invece guarda un po'. Vabbè, succede. Ma è da queste piccole defaianze che si vede la grandezza, secondo me. Vabbè. Sì, sì. Non bene, nel frattempo ho anche la tosse, guarda un po', non bene. Dunque, ci sei? Ci sono, ci sono. Fantastico. Di qualcosa che io so qualcosa ancora. Allora, potremmo anche andare in chiusura per quello che riguardava gli aggiornamenti di quello che è successo oggi, soprattutto e solamente Milano e Napoli, ma non abbiamo l'ambizione di coprire il nazionale. Ribadiamo la solidarietà per Andrea, che è una situazione che cercheremo di seguire in seguito. Direi che possiamo mandare una canzone e poi presentare il programma che va a seguire. Perfetto. Allora, la canzone che mandiamo inaspettatamente è una versione di Bella Ciao, perché abbiamo pensato che era il caso, ma è una versione un po' curiosa, perché è la versione dei Chumbawamba, antico gruppo punk inglese, e hanno fatto questa canzone cantata in inglese col testo leggermente diverso dopo Genova 2001. Pensavano che acquistasse un nuovo significato. E siamo completamente d'accordo. Cittadini, lavoratori, Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. E rieccoci in studio. L'ultima voce che abbiamo sentita era, ve lo ricorderete, che era chiaramente il PERT, come direbbe Andrea Pazienza. Ciao, ci sei ancora? Ciao Radiovirus, ci sono sempre. Allora, dimmi. Come siamo messe? Salutiamo? Direi che possiamo salutare con questa nota alta. Decisamente. Auguriamo a tutti e tutte ora e sempre resistenza, come è giusto fare ora e sempre. E... compagno Radiovirus, vuoi dire qualcosa? Ora e sempre resistenza. Direi che adesso abbiamo una trasmissione che hai curato tu e dunque ti chiederei di lanciarla nel modo in cui preferisci e via. No, la lancerò sì, un salto dopo la sigla. Comunque stiamo per mandare il secondo podcast di Folk Oddio, una carrellata musicale stavolta super resistente, un po' più lunga del solito. Mi raccomando, mano alle chitarre perché si ascolta, ma volendo si suona anche un po'. E niente, vi lascio e via con Folk Oddio.